il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La Regione Veneto si accinge a discutere alcune proposte di legge relative al contenimento del consumo di suolo, alla rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità insediativa e a nuove disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. In previsione dell'inizio di questo dibattito, Confartigianato Imprese Veneto ha commissionato alla società Teorema un report sulla situazione del territorio regionale con particolare riferimento al consumo di suolo e alle trasformazioni che lo hanno attraversato in questi ultimi anni. Perché, ha dichiarato il presidente Luigi Curto, puntare sulla riqualificazione fa bene all'economia, all'occupazione e all'ambiente ed è anche redditizio per i cittadini. Per capire un po' di più, sapere un po' di più di questa situazione, abbiamo oggi con noi Federico Della Puppa della società Teorema, coordinatore della ricerca presentata appunto da Confartigianato Imprese Veneto. Benvenuto, professor Della Puppa. Buongiorno a tutti. Ecco, volevamo capire un po' quali sono i dati. Ci colpisce in primo luogo la questione del consumo del suolo. Il Veneto è veramente una delle regioni che ha consumato maggior suolo, soprattutto in questi ultimi anni. Qual è la situazione? Ma è una situazione abbastanza preoccupante da un certo punto di vista, perché il Veneto è la seconda regione in Italia per consumo di suolo, dopo la Lombardia, prima della Campania e subito prima dell'Emilia-Romagna. Diciamo che l'ambito, a parte la Campania, che però presenta delle modalità costruttive e realizzative tutto sommato abbastanza simili alle aree diffuse nostre, tutta l'area dell'angolo Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ha dei valori molto molto elevati. Il Veneto, a differenza della Lombardia in particolare, non ha il grande centro metropolitano come Milano, ma piccoli, diciamo, comuni capoluogo raggiungono i 300.000 abitanti, e quindi diciamo che il consumo di suolo è un consumo molto diffuso su tutto il territorio, nei piccoli comuni. Questo fa sì che il problema si concentra solo in alcune aree, ma è un problema diffuso soprattutto nell'area centrale del Veneto, compresa tra le province di Padova, Treviso e Vicenza, si estende fino anche all'area veneziana e all'area veronese, quindi ecco, diciamo lungo l'acqua. Quindi questo è un problema. Strade. Ecco, l'altro problema mi pare che sia la qualità, la bassa qualità di quello che è stato edificato. Sì, diciamo che se avessimo costruito tutto secondo criteri di grande qualità edilizia e di grande qualità urbanistica, sicuramente oggi non saremo qui a porci delle domande su come intervenire per rimettere mano al patrimonio edificato, soprattutto quello residenziale, ma non solo quello residenziale, anche se per inciso la ricerca fa riferimento diciamo solamente alla parte residenziale, mentre quella non residenziale sarà oggetto di una ricerca futura. Diciamo che abbiamo costruito moltissimo, occupando molto suolo, però abbiamo costruito troppo e anche male. Abbiamo costruito edifici molto energivori, consumano troppa energia rispetto a quella oggi diciamo che le norme prevedono, e per la sostenibilità complessiva della nostra economia e anche del benessere, della qualità della vita in generale, dobbiamo procedere a investimenti che mettano mano a questo patrimonio. Ecco, lei parla di investimenti, in effetti questa situazione negativa e grave ha un altro aspetto che potrebbe rivolgere in positivo. Si parla di rigenerazione urbana, di decine di migliaia di edifici oggi inutilizzati. Tutto questo patrimonio edilizio su cui si potrebbe rimettere mano potrebbe diventare una risorsa se si decidesse di rigenerarlo, riqualificarlo. Beh, assolutamente sì. Abbiamo più di 450.000 abitazioni in Veneto che sono inutilizzate per vari motivi. Una buona parte sono anche seconde case di vacanza. Però diciamo che abbiamo

like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we're young. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di consumo del suolo, ma anche di rigenerazione urbana. Lo stiamo facendo con Federico Della Puppa, coordinatore di un'analisi commissionata da Confartigianato Imprese Veneto e la società Teorema, appunto sulla situazione del territorio regionale. Abbiamo parlato di consumo del suolo e anche di possibilità di recuperare il patrimonio edilizio e quindi di avere una forma di possibile investimento, ma anche occupazione, perché tutto questo patrimonio che si potrebbe rigenerare potrebbe portare occupazione e quindi riattivare soprattutto il comparto edilizio, che sappiamo essere fondamentale per l'economia. Sì, diciamo che mettere mano al patrimonio edificato, riqualificarlo dal punto di vista energetico, è oggi un'operazione, come si dice in gergo, win-win, cioè vincono tutti. Non è un'operazione di speculazione territoriale dove si trasformano aree agricole e si rendono edificabili, a beneficio ovviamente degli investitori, ma è la possibilità di utilizzare, da un lato, la defiscalizzazione degli interventi, da un lato il risparmio in bolletta, garantendo che nell'arco di 10 anni sostanzialmente gli interventi si pagano da soli, e dall'undicesimo anno in poi in pratica il risparmio in bolletta diventa un risparmio vero per le famiglie, per i soggetti, e dall'altro lato aprire ad un mercato, quello della riqualificazione, che è l'unico mercato possibile oggi e sul quale si potrebbero generare moltissimi posti di lavoro. Noi abbiamo calcolato che si potrebbe arrivare, diciamo, tra un 11 e un 18% di posti di lavoro in più, attivando una forte azione di rigenerazione urbana che darebbe anche maggiore qualità al territorio complessivamente, anche al paesaggio. Ecco, per concludere un po', ne viene fuori un quadro in cui il consumo di suolo forse non è più necessario, quindi anche guardando le previsioni, i dati Istat sulla crescita delle nostre città, che sono abbastanza in fase statica, non c'è bisogno di nuove aree urbane, di ampliare la costruzione, ma basterebbe recuperare quello che c'è, che potrebbe essere anche recuperato quindi in maniera energeticamente migliore, con comfort migliori, e addirittura andando a recuperare spazio. Assolutamente sì, oggi diciamo che la Regione Veneto si sta muovendo verso una norma assolutamente necessaria, che è quella del non tanto del contenimento del consumo del suolo, ma proprio del suo blocco, per far sì che finalmente anche l'industria delle costruzioni, tutti i soggetti, iniziano a guardare ciò che è stato edificato e a metter mano a ciò che è stato costruito. Questo garantisce, diciamo, il miglioramento complessivo del sistema, ma poi soprattutto dobbiamo tradurre oggi questi concetti, queste politiche in azioni concrete, e la prima concretezza è quella di dire alle famiglie, ai soggetti che abitano in questi alloggi, che mai come oggi è conveniente intervenire, riqualificare, perché la riqualificazione si paga da sola sostanzialmente, e in più diciamo, mentre per le automobili noi sappiamo esattamente quanto un'automobile fa con un litro di benzina o di gasolio, noi non conosciamo quanto una casa fa con un litro di benzina o di gasolio, anzi, equivalente. Cioè, le nostre case purtroppo oggi consumano troppa energia e di questo non abbiamo, diciamo, non abbiamo coscienza. Le informazioni non le abbiamo abbastanza diffuse tra le famiglie, eccetera, e oggi invece dobbiamo essere consapevoli che chi vive in una casa degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70 ha un consumo medio, diciamo in litri equivalenti, il consumo di gasolio, di circa 20, 25 fino anche 30 litri di gasolio per ogni metro quadro di abitazione all'anno. E con interventi di regenerazione si potrebbe arrivare a 1,5, 2, 3 litri di gasolio. Quindi ora, conviene rigenerare e un risparmio non è un costo, ovviamente visto alla lunga. Grazie. Grazie a voi. Rimaniamo in qualche modo in tema e concludendo la trasmissione con questa notizia. Torna, e anzi è già iniziata, la settimana della bonifica. Fino al 30 aprile sono organizzati eventi e sono visitabili alcuni siti di interesse idraulico della nostra regione. Si tratta di un'occasione unica per scoprire il patrimonio ambientale e culturale che i consorzi di bonifica provvedono ogni giorno a preservare e valorizzare con la loro attività, spiega Giuseppe Romano, il presidente di ANBI Veneto, ovvero l'Unione Regionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Informazioni sulla settimana della bonifica sul sito internet www.anbiveneto.it. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.